Ciao Gianfra, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Altrettanto anche a lei e famiglia. Ricambiati Natali. Mi dici come mi senti che stavo provando apparecchio che inavvertitamente è toccato dei pulsanti e si era mezzo incasinato. Oh, bene, bene, stai andando bene. Chi è Natali? Ciao Franco, ciao Franco. Come te stai tutto che stai preparando Natali? Tutto in cucina. E allora bisogna preparare. Ancora non ho fatto nulla. Ma conviene rimanere un po' vicino, se poi c'è domani, dopo domani, e ci si imbottisce. E infatti no, io già non mi abbuffo. Avanti, buonasera, chi fischia sotto? Forse non mi sento ammenata. Chi è che fischia sotto, avanti? Ok, rimani un po' nascosto, devo montare la tua parete. Ehi, già sono qua. Chi è? Fallo col culo adesso e poi con la bocca attorno. Maleducato che non sei altro. Vai, ammazzati, va. Chi è avanti? Chi è avanti? Chi è avanti? Avanti. Chi è?